tracce resistenti, info e musica internazionalista. E entriamo in spirito Africa, ma poi, visto che qua in Europa va uno schifo, parleremo dell'Italia. E adesso parte il signor K con Joey Cagliostro, fanno un feat con DJ Edo, Cultura Originale. Ok, signor K, questa è una grande storia. È una grande storia. La vera storia. Vai. Sopravvivenza, un istinto primordiale, appartenenza, un vincolo tribale, resistenza, un concetto universale, è l'Africa, è l'hip hop, è cultura originale. Sopravvivenza, un istinto primordiale, appartenenza, un vincolo tribale, resistenza, un concetto universale, è l'Africa, è l'hip hop, è cultura originale. I nostri avi erano schiavi, stipati sulle navi, erano merce, dentro stive lerce, storie antiche come querce, tanto antiche quanto il sole, antiche come i doni della terra quando piove. La vita altrove, la condanna del mio popolo in catene, ma nel sangue e nelle vene pulsa lava di vulcano, ritmo che proviene da lontano, insopprimibile richiamo, la dignità del popolo africano, stretto come il pugno nella mano. La tribù si unisce nel segreto della notte, lotte, danze, canti e riti che propiziano buoni auspici. L'appartenenza nutre nuovi miti, dai campi di cotone ai bassi fondi della city. Stesse le radici, nuova linfa spinge sotterranea, jazz, blues, musica dell'anima. Questa resistenza è una cultura che contamina. Sopravvivenza, un istinto primordiale, appartenenza, un vincolo tribale, resistenza, un concetto universale, è l'Africa, è l'hip hop, è cultura originale. Sopravvivenza, un istinto primordiale, appartenenza, un vincolo tribale, resistenza, un concetto universale, è l'Africa, è l'hip hop, è cultura originale. Nella città che si trasforma, che deforma il proprio aspetto, l'orizzonte del mio popolo nel limite di un ghetto, costretto, messo all'angolo risponde, un vincolo tribale originale si diffonde, dalle gang alle crew, metropolitan tribù, ogni notte un rendezvous, nelle strade dei quartieri disperati, nei palazzi abbandonati, dai bassi strati, nuovi cantastorie nei raduni improvvisati, block party, ritmi in quattro quarti, gli MC con i DJ che gettano fuoco sugli impianti, devastanti nei VAT, nel volume, battaglie di costume, la spunta è il più potente in sta competizione, affermazione che porta l'arte di ogni rider sul vagone, reputazione nel proprio territorio, essere re di tutti i re come DJ Kulerk, è l'hip hop, muove il Bronx nelle jam, nelle jam. Sopravvivenza, un istinto primordiale, appartenenza, un vincolo tribale, resistenza, un concetto universale, è l'Africa, è l'hip hop, è cultura originale. Sopravvivenza, un istinto primordiale, appartenenza, un vincolo tribale, resistenza, un concetto universale, è l'Africa, è l'hip hop, è cultura originale. Questa era l'introduzione a un paragrafo Guinea-Conakry, visto che il 18 aprile 2013 ci sono stati nuovi scontri in Guinea. La manifestazione del 18 aprile è stata organizzata riguardo la convocazione delle elezioni legislative per il 30 giugno. Otto guarda, l'ultima data proposta era il 12 maggio. L'opposizione accusa il governo di aver rimandato la data con una decisione attuata in modo unilaterale. In vista della protesta, le autorità hanno dispiegato 4.000 uomini delle forze di sicurezza. Almeno 15 persone sono rimaste gravemente ferite negli scontri. La polizia ha anche arrestato il portavoce dell'opposizione Boubacar Sylla e un leader del Partito Popolare di Guinea, che sono però stati rilasciati dopo poche ore di fermo. Quattro persone, spiega il governo, sono state ferite da proiettili di origine ignota, mentre le altre sono rimaste ferite quando i manifestanti hanno lanciato le pietre, se, come no. Ancora ci tocca sentire queste baggianate invece che assunzioni di responsabilità. Noi registriamo almeno un uomo dichiarato alla stampa internazionale che è in condizioni critiche nel pronto soccorso dell'ospedale Donka. Gli hanno sparato allo stomaco, sta sanguinando, ma non abbiamo i mezzi per curarlo, ha detto il portavoce. Pare che questa sia la vita in Guinea, non si sa se ci saranno mai nuove elezioni politiche. E adesso diventiamo intranazionali invece che intranazionalisti, non si può dire. E vi parto con Cause Giuste di Cavallino, milanese. Alimentato dalla voglia di fare, ma scoraggiato da persone su cui non posso contare. Così non vale, sto andando a male, mandatemi un segnale. In questo scenario sempre più buio e assurdo che non si trovi un accordo, a voi mi rivolgo, qualsiasi pensiero colgo. Diamo una svolta alla rivolta, alziamo la voce insieme invece che uno alla volta. Uniti siamo qualcuno, alimentiamo sta scena, fanculo loro che non conoscono quella vera. 2012 nuova era, altro che berretti new era, il fiume in piena, la gente si incatena, combatte per i diritti persi, sono finiti gli scherzi, calci in faccia al casco blu con l'armatura, dietro le quinte gira voce di dittatura. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Il futuro siamo noi senza alcuna discussione, sento parlare di riscossione ma zero assunzione, non lamentatevi se partirà una rivoluzione, dalla mia bocca non sentirai mai sì signore, il dito medio alzerò in segno d'onore, si alza un coro di protesta, la gente onesta, indipendentemente dal colore della cresta, visti come persone di poco conto, un ricordo ai ragazzi persi nello scontro, faccia a faccia con la questura, è finita la vita, arrivati in prefettura, mentre fuori si spara a vista, uno di noi cade nella mischia, attaccano di notte nella scuola, volano le botte nelle mani, pistole e manganelli, si chiudono i cancelli. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Armati sino ai denti, scontri tra avvocati e agenti, perché nessuno possa confessare i conflitti avvenuti in quel piazzale. Tutto questo non è normale, ma purtroppo lasciano passare, disturbato da quello che mi circonda, la storia non tiene, scorre sangue acido nelle vene, ma mai scordo e intanto sprofondo il mio pugno a fondo nel vuoto più profondo. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. Lotta per cause giuste, non girarti quelle ingiuste, le situazioni sono queste. A proposito di lottare per cause giuste e situazioni veramente ingiuste, vi mandiamo un audio realizzato da Radio Cane sullo sgombro della biblioteca autogestita ExQM nell'Università Statale di Milano. E poi vi raccontiamo gli sviluppi. La registrazione inizia con le dichiarazioni del rettore Vago ai tempi della sua nomina. Achtung! E io credo di rappresentare per la mia storia personale, per i compiti che ho potuto svolgere in questi anni all'interno dell'università, credo di poter rappresentare una svolta, un cambiamento vero nei meccanismi di governo della nostra università. Adesso quando cercherò di spingere via il presidio direttamente fuori dall'università, e stanno mancheranno in questo momento, stanno caricando dentro il chiostro. E la ricetta del professor Vago prevede una maggiore apertura dei magnifici chiostri della statale. L'idea è che si debba uscire di qui senza nessun timore, senza nessuna arroganza, anche insieme, ma con una disponibilità assoluta a discutere e a lavorare su progetti. Stanno continuando a caricare anche per me la gente dispersa all'interno del chiostro. Stanno spaccando tutto, è veramente una situazione incredibile. Il vostro compagno è appena stato circondato e lo sta venendo spinto fuori dall'università, un'altra parte è tenuta verso la biblioteca crociere da un altro drappello di carabinieri, hanno fatto diverse cariche di fila, in pratica era stato rioccupato un posto preso alcuni anni fa nel periodo dell'onda, quello sul chiostro centrale. La polizia, dopo una serie di minacce da parte del rettorato, è entrata con una manovra tenaglia, sostanzialmente spazzando via i compagni. Ha fatto 5-6 cariche, adesso stanno ripartendo i nuovi carabinieri e stanno pigliando i compagni in mezzo da dietro. Di resistere con tutto, cerca di resistere con tutto, i ragazzi hanno preso dei pannelli qui, perché cercano le bacheche, cercano di fare delle barricate. Ci sono ancora in ballo prezzi di laurea qui. Gente intorno se ne batte il cazzo, c'è gente tipo, sai, i neolaureati che sono lì a festeggiare, a mangiarsi i pasticcini e fanno le foto con l'iPhone. Dalla balconata c'è il rettore che ammira la scena ridacchiando. Diciamo che è riuscito a presentarsi peggio di De Cleva, che già nel 2004 si era, ha dato il suo biglietto ingresso portando la celere dentro l'Aula Magna. Però nulla a che vedere con quello che ha fatto sto pagliaccio. Dal balcone del rettorato c'è il rettore Vago e altri personaggi così dell'ufficio amministrativo che stanno guardando dall'alto la scena, e il rettore ha la classica espressione del padrone delle ferriere o qualcosa di simile, che guarda abbastanza compiaciuto la scena veramente vergognosa che ha appena avuto luogo. Ora stanno inseguendo, c'è un gruppo di carabinieri che sta inseguendo un gruppo di compagni lungo il chiostro, sta entrando nel lato della Lamagna, carabinieri, mentre altre 5 squadre di polizia e carabinieri presidiano l'uscita con le spalle verso, insomma, guardando dentro, verso l'interno del chiostro centrale. C'è una cinquantina di sbirri stati davanti all'ingresso dell'università. Loro sono all'interno dell'università, nel cortile centrale. Sono riusciti a dividerci, nel senso che una parte è stata spinta fuori, una parte di noi è stata spinta fuori, siamo un'altra parte, come compreso, siamo rimasti all'interno dell'università, nel cortile centrale sempre. Ci sono anche altri studenti che sono usciti dalle biblioteche e appunto che ora sono qua a guardare. Alcuni li stanno appunto facendo defluire fuori. Sono ancora molti studenti alla fine delle lezioni che stavano uscendo, e in questo momento i carabinieri stanno percorrendo il corridoio dove si trova l'ex-QM e stanno cercando di chiudere l'entrata secondaria di Effetto del Perdono. stanno convogliando tutti gli studenti che non c'entrano, che comunque non erano nella difesa dell'ex QM fuori, facendoli passare attraverso un cordone di carabinieri. Ci sono ancora compagni del chiostro centrale e altri cacciati fuori dalla carica che vi ho descritto prima all'inizio della telefonata. Io sono nel cortile del Filarete. La polizia si è mossa in lungo e in largo, a un certo punto non riusciva più a distinguere tra gli studenti qui presenti, che sono molto numerosi per lauree, corsi non ancora finiti, e i compagni della QM. Si sono fatti avanti belli decisi, la resistenza è stata articolata, qualcuno si è preso manganellate, e che la cosa che colpiva di più è che questo veniva mentre altri studenti celebravano chi la laurea, chi il cattivo. Però la roba è passata, insomma, ha colpito molto in presenza, anche perché erano, se non ricordo male, 41 anni che non entrava la polizia nell'università statale, dal marzo del 72. C'è in giro anche qualche docente, abbastanza stranito, perché insomma, è stata realizzata molto velocemente, quindi si può pensare che fosse stata anche progettata nei giorni scorsi. E anche vedere le facce degli studenti, o comunque vedere davanti ai loro occhi la realtà e la brutalità della polizia, che ovviamente non ci pensava né uno né due a frullare noi che eravamo incordonati, tenevamo per quello che potevamo, ma insomma ne abbiamo buscate tante, e gli studenti hanno visto, quindi anche questo è servito proprio da schiaffo, da sberla a una realtà che è assopita totalmente da un sacco di tempo. Poi ovvio che la solidarietà è arrivata anche da molti studenti, cioè si vede che non vedono la polizia come un amico, ecco, sicuramente. Certo, perché io appena ho visto il casino non ho capito la situazione, mi sono messo con i ragazzi, perché l'università è la nostra università, stanno facendo delle lotte che serviranno anche a noi, penso. Allora, noi eravamo io e mio amico, eravamo fuori dall'entrata di via Fascia del Perdono dell'università, e abbiamo visto questo gruppo di poliziotti, erano di Celere, che arrivava verso l'università. Già in assetto comunque antisommossa, e si vedeva che erano intenzionati, avevano brutte intenzioni. Sono entrati in università, noi siamo entrati in università per non rimanere là fuori, e sono entrati e hanno caricato indistintamente, senza ragazzi, ragazze, chi c'era, colpi a manganellate in faccia, senza che nessuno gli avesse fatto niente, senza che nessuno abbia tirato qualcosa, senza motivo. Insomma, hanno alzato le mani a destra e a manca, come si suol dire, senza motivo logico, e sono arrivati con l'intenzione di fare male e basta. Avevano le facce proprio per fare male, e colpivano per fare male, perché a me è andata una manganellata in testa e una sulla mano, quindi se fai così lo fai per fare male. Sono partite un sacco di manganellate, mi hanno appena avvisato che è arrivata un'ambulanza fuori dall'università. Sono due feriti, una ragazza e una ragazza, oltre alle innumerevoli mazzate prese in generale. È stato veramente fuori di testa, cioè sono proprio anche sorpreso per la violenza inaudita con cui si sono mossi contro di noi. La situazione è veramente è pazzesca, cioè tutto il posto sembra un campo di battaglia, sono bottiglie rotte, transenne di belte, contenitori della plastica rovesciati, insomma tutto quello che è la mobile in questo momento è la terra. Una giornata particolare, di quelle destinate a imprimersi nella mente dello studente qualsiasi, altrimenti consegnato all'inesorabile sempre uguale. Fin dalla prima mattina, la desolante immagine della ex QM sgomberata. Impianti elettrici ed illuminazione strappati, porte divelte, libri e arredi asportati. Il pavimento butterato di crateri, un grigio cementizio uniformemente diffuso. E la mostra di foto NOTAV appese alle reti arancioni che sbarrano l'accesso ai locali, calzante pennellata in chiusa d'opera. Poi, nel primo pomeriggio, l'assemblea in atrio. Poche parole ma ben calibrate, molte facce nuove e soprattutto una partecipata intenzionalità fattiva. E così, alle 4, l'auletta sul cortile del Filarete, consegnata dall'amministrazione alle pagliacciate spettacolari di interni, ritorna in mani amiche. Ma infine l'ordine brutalmente restaurato e il rettore platealmente abbalconato. Che cosa resta? Capannelli di studenti qualsiasi, commenti esangui di docenti che non hanno proprio nulla da insegnare e l'impellenza di capire da sé la lezione. La realtà del conflitto, nei suoi aspetti salienti, ha fatto oggi bruscamente irruzione nell'ovattato tran tran dell'Università Statale di Milano. Fine delle mediazioni e delle coperture politico-sindacali. Violenza dello Stato, attacco aperto a ogni espressione di autonomia e libera determinazione. Una realtà da ribaltare soggettivamente. Quando un grave pericolo è alle porte, le vie di mezzo portano alla morte. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ringraziamo di nuovo Radio Cane di Milano per questo report. Questo era un chiaro esempio di Radio Default. Presta, ci ascolto, che poi te lo ridiamo. E adesso un po' di aggiornamenti. Il 7 maggio gli studenti in assemblea fanno corteo per richiamare l'attenzione delle altre facoltà e tornare ad occupare lo spazio. è stata rioccupata la QM e gli universitari tengono fuori la cella dall'università, picchettando tutta la notte. La polizia ha cercato di impedire agli scatoloni di libri di entrare e allora i ragazzi hanno fatto passare i libri uno a uno dalle finestre. Adesso chiedono una mano per la ricostruzione, sia un aiuto fisico sia il sostegno del materiale per rifare muri, pavimenti, impianto elettrico. Gli servono nuovi tavoli e sedie, hanno bisogno anche di carta. Sotto lo slogan "dove loro distruggono, noi ricostruiremo", si sono messi già a ricostruire. I ragazzi fanno sapere inoltre che la rioccupazione e ricostruzione è stata molto partecipata. Dicono che una presenza studentesca così massiccia non si vedeva dai tempi dell'Onda 2008 e che la repressione quindi genera coscienza di partecipazione. Se ci sono dei milioni in ascolto, join the rebel side. Andate a supportare la ex QM dell'Università Statale di Milano, perché Radio Default, come tutto il movimento, chiede le dimissioni del rettore Vago, colui che ha allarmato la polizia e ha autorizzato la mattanza. A Roma, studenti e studentesse della Sapienza hanno occupato la sede della conferenza dei rettori dell'Università Italiane contro il violento sgombero della libreria con striscioni e megafono. A Napoli, fascisti e polizia hanno caricato gli studenti in piazza Plebiscito. Un centinaio di studenti e ricercatori napoletani dei collettivi erano in presidio sotto la prefettura di piazza Plebiscito, nato spontaneamente stamani per contestare la passerella del neo ministro dell'istruzione Carrozza e per protestare per le violente cariche di ieri della polizia dentro l'Università Statale di Milano. Un fatto senza precedente da molti anni. In piazza, in mezzo a una trentina di ex dipendenti dei consorzi di bacino, si sono aggiunti all'insaputa degli studenti alcuni nazifascisti e soprattutto Salvatore Lezzi, noto fascista tra i fondatori a Napoli della formazione nazifascista Forza Nuova, a processo nel 2003 per aver chiesto tangenti ai disoccupati delle cooperative in combutta con camorristi. Questi hanno effettuato provocazioni, saluti romani e lanciato un casco contro i manifestanti. A quel punto la tensione è salita e la polizia ha violentemente caricato una prima volta gli studenti che manifestavano, ferendo un ragazzo a manganellate, e una seconda ferendo e fermando alcuni studenti e dottorandi. Polizia e fascisti erano evidentemente schierati insieme nel tentativo di aggredire e disperdere il presidio degli studenti. Il comunicato diffuso dalle reti studentesche napoletane continua denunciando e smentendo con forza qualunque ricostruzione della giornata, già fatta da alcuni giornali e propagata dalla questura, che si sia trattata di una rissa tra lavoratori e studenti. Questi figuri dell'estrema destra campana non sono nuovi a queste dinamiche, così come le forze dell'ordine di questa città. Già si sono viste all'opera, ad esempio, il 10 ottobre 2011 a Via Marina, di fronte a uno dei palazzi dell'università. Avvenimento per cui si terrà lunedì prossimo un presidio di solidarietà in occasione della prima udienza contro i 10 antifascisti. Di sottofondo abbiamo usato il dub femminile Mister Data e Ruggero Casamassima, che torneranno fra poco con una traccia. Però intanto vi faccio partire Intifada dei Rapcore, da Ostia. L'Italia intera soffre da paura, la massa è rassegnata ma non lotta, vuole una vita sicura, è debole, ignorante, piatta e priva di cultura, rimpiange scioccamente la passata dittatura, ma io rifiuto ogni stato chiesa, se rimo porto il dramma nel sistema come in Spagna ha fatto l'ETA, la chiesa è una congrega di mafiosi ingioiellati, pregate crocifissi di diamanti insanguinati, adesso la natura chiede il conto, questo materialismo mangia in corto con un odio cieco e sordo, il mondo sta finendo e non capisce, è l'uomo che l'uccide mentre Dio piange triste e non reagisce, nessuno che si fida, la gente è malfidata, cospiro nuove trame e mi preparo all'intifada, faccio di questa musica denuncia e redenzione, rappando solo il vero renderò immortale un nome. L'intifada è una lotta non armata, rivoluzione nata nel cuore della strada, chi viva la giornata, chi resta indipendente, rancore è un fucile caricato, fino al cuore della gente. L'intifada è una lotta non armata, rivoluzione nata nel cuore della strada, chi viva la giornata, chi resta indipendente, rancore è un fucile caricato, fino al cuore della gente. Salgo su dei bassi fondi con la faccia a zombie, la giacca a rombi, siete pronti? Veniamo a chiudere i conti, cercate fonti, non vi passo nada, guido st'intifada, ogni barra amata e non verrà placata dalla plata. Sta zona è affamata, sta roba è malfamata, fa paura perché è pura come coca non tagliata. La dittatura, censura e democrazia fittizia, il presidente investe sul mattone, non nell'edilizia. ogni notizia è rigirata, poi imbastita, la gente fatica, da voi c'è crisi, qui non è mai finita. I visi sono pisti, di natura pessimisti, qui non vivi, resisti, sopravvivi in questi tempi tristi. Viviamo sotto eclissi, aspettando il sole, parape 24 ore, occhi fissi nel retrovisore. Sta gente vive e muore, stretta da una morsa, si muove con epi nelle suole, quello che vuole lo prende a forza. Intifada è una lotta non armata, rivoluzione nata nel cuore della strada. Chi viva la giornata, chi resta indipendente, ancora è un fucile caricato, mira al cuore della gente. Intifada è una lotta non armata, rivoluzione nata nel cuore della strada. Chi viva la giornata, chi resta indipendente, ancora è un fucile caricato, mira al cuore della gente. Corro forte, non mi fermo, la mia libertà in palio, devo meditare come sbarcare il lunario. Tu chiama il commissario, avvertilo che mo si cambia, perché tutte le bestie sono uscite dalla gabbia. Per tutte le persone che fanno rivoluzione, che parte dalla mente a chi non vende un'emozione, chi sta dietro una grata, chi svolta la giornata. Copriamo i nostri volti e siamo pronti all'intifada. Roma è la città che mi ha ispirato e dato molto, perché sono nate lì tutte le storie che racconto. È sto mondo che mi vuole, freddo e di poche parole, quindi il testo che vi sparo amaro come se è liquore. Per tutta quella gente che quando mi sente ai brividi, speri di fermarmi, sai che devi fare, uccidimi. Comunque vada, inseguo una passione che è sfrenata, raduno i miei soldati e siamo pronti all'intifada. E se vi interessa la questione dell'ex QM, sabato 11 maggio 2013 alle 2:30 del pomeriggio, qua su Radio Default, nella puntata di Ops Connecting Fight, si parlerà dell'ex QM, ci saranno collegamenti con la libreria autogestita per sapere gli sviluppi. A loro va tutta la nostra solidarietà. E nel frattempo vi potrei raccontare cosa è successo a Tor Tre Teste il 2 maggio. È stato sgomberato un palazzo con un centinaio di famiglie, in tutto circa 300 persone, molti bambini. Lo stabile era stato occupato all'ultimo tsunami tour del 26 aprile dai BPM, blocchi precari metropolitani. E alle 8:30 di mattina si sono presentate le guardie. Non è stato fatto il solito sgombero notturno all'alba per cercare di non disturbare il traffico. Farlo alle 8:30 di mattina significa bloccare sì il traffico. E tra l'altro l'ultimo tratto di via Viscogliosi è stato chiuso a sgombero già avvenuto. Compaiono dopo le 14 i pizzardoni, i vigili urbani. Dopo le 14, dopo già 2 ore che tutto era finito. Insomma, è servito a dare visibilità all'evento in periodo preelettorale a Le Manno. Le forze dell'ordine hanno inoltre chiesto ai genitori delle scuole elementari adiacenti di chiudere anticipatamente e prendere i bambini da scuola. Suggeriscono di chiudere i negozi e arriviamo che tutte le serrande sono abbassate, tranne un alimentari che al massimo ritira i banconi da frutta all'interno del locale. Queste precauzioni erano assolutamente inutili. Comunque ci sono state oltre 3 ore di assedio e una manifestazione spontanea è partita dalla Prenestina in direzione del palazzo sgomberato. Lo sgombero è effettivamente avvenuto alle 12, quando gli ultimi occupanti sono stati portati fuori. Nel frattempo hanno cercato di sgomberare anche l'hotel 4 Stelle, occupato il 6 dicembre, e le camionette erano presenti senza fare pressione davanti al Degace e a Comunia. Non si sa bene se volessero monitorare dov'è che ci fossero gli accentramenti, gli aiuti, o se volessero davvero sgomberare. Altra cosa da notare è che non sono stati fatti entrare i giornalisti all'interno del cortile di via Viscogliosi. Un cortile blindato da cordoni di polizia in assetto antisommossa. Il 6 maggio c'è stato un incontro per decidere le sorti degli occupanti di Tor Tre Teste. Il rappresentante del movimento ha detto che l'incontro è andato male. Ha dichiarato: appena siamo saliti a Palazzo Senatorio Angelo Scozzafava, cioè il direttore del Dipartimento Politiche Sociali, e Antonio Lucarelli, capo segreteria del sindaco Gianni Alemanno, ci hanno detto che non avrebbero potuto fare niente senza avere nomi e cognomi di ognuno degli occupanti di Oltre Teste e i motivi dell'occupazione. Ci hanno detto che l'unica soluzione era dividere le famiglie, dando un alloggio a donne e bambini, e poi per gli uomini vedremo una volta terminata l'emergenza abitativa. Io a lungo continuo dicendo siamo rimasti insoddisfatti e ci siamo arrabbiati. Loro non ci danno risposte e allora, come al solito, il problema ce lo dobbiamo risolvere da soli. Gli occupanti e i loro sostenitori usciti dal Campidoglio diventano una manifestazione spontanea, non autorizzata, è certo spontanea, in direzione di Piazza Venezia. Un cordone di forze dell'ordine ha respinto il corteo improvvisato e i manifestanti hanno cercato di forzare a spintone il cordone. Gli agenti hanno reagito con i manganelli e hanno bloccato il traffico. Sono derivati scontri tra i contusi e anche alcuni agenti della polizia. Il tutto finisce con un sit-in sotto il Milite Ignoto ed un successivo sit-in davanti alla prefettura. Tutto questo casino per evitare un sit-in. Aggiungo che i centri d'accoglienza, che gli occupanti hanno rifiutato e hanno fatto bene, danno spesso condizioni disagevoli di vita e sono un costo per lo Stato e un magna magna per chi offre servizi. L'emergenza abitazione potrebbe essere risolta con una moratoria sull'occupazione di palazzi sfitti e sarebbe una soluzione a costo zero. La Roma d'Alemanno, invece, propone elicotteri a sorvolare le occupazioni, centinaia di guardie in servizio e centri d'accoglienza per un costo di circa 40 euro al giorno per ogni persona. Nel caso di Oltre Teste abbiamo detto sono circa 300. Se non vi è chiaro, facciamo i conti. Abbiamo zero costi per una moratoria contro un elicottero che costa 5.000 euro l'ora ed ha volato circa, ed ha volato per 4 ore. Quindi siamo già a 20.000 euro così in un puff, senza contare la giornata di lavoro delle forze del disordine per lo sgombero. E poi ci sarebbero 360.000 euro mensili di centri d'accoglienza. Non mi sembra che ci sia paragone. Se ho sbagliato i conti, correggeteli. Se sono d'ora a sbagliarli, continuate ad occupare. Attenzione, attenzione. È il 20 ottobre 2010 e sta cominciando la rivoluzione. I signori e le signore sono gentilmente invitati a fare casino e a protestare a Sassa. Uno, due e tre. La casa massima, Mister Data, la rivoluzione. Hey, hey. Come faccio? Non si ferma. Basta singa. Oggi con gli amici faccio la rivoluzione. Senza candidati nelle prossime elezioni. Senza giornalisti e senza la televisione. Che senti le notizie, sono dentro le canzoni. Nessuna maggioranza contro l'opposizione. Nessuno posiziona, caso tutto fanno un lot. E capi del governo e presidente Berlusconi. E mostrato tutta sede, tenga un'altra soluzione. E quale PDL con la Lega e l'UDC? Che non ci stanno soldi per i politici. Altro che viaggi e privilegi. Senza l'auto blu andate in giro con la bici. Giacca e cravatta stanno aboliti. Senza orologi e belli vestiti. Senza pagare soldi e vestiti. Tanto ospedale stanno tutto garantiti. La rivoluzione nella mia testa. Tutta la gente balla e fa festa. Guida mia nonna dalla finestra. Voglio cambiare tutto, mo basta. La rivoluzione nella mia testa. Tutta la gente balla e fa festa. Guida mia nonna dalla finestra. Voglio cambiare tutto, mo basta. La nonna c'ha ragione che il politico è un broglio. Nessuno che si salva dentro a questa mia nazione. Sono tutti dei ladroni che e false promesse dentro a tutti trasmissione. Altro che Padania, la nazione salva il po'. Tu che voti Lega, io che ti rispondo boh. Sì, ma tutto passa se si vota meridio. Il secessionista con la faccia da coglio. Voglio un'Italia che funziona così. Senza le prigioni che tu chiami CPT. Tanti bambini immigrati. E non li chiamare più clandestini. Porta sempre aperta ad albanese e marocchini. Multiculturale, io la voglio l'Italia. Solidarietà tra Venezia e Napoli e tagliare le palle secessionisti. La rivoluzione nella mia testa. Tutta la gente balla e fa festa. Guida mia nonna dalla finestra. Voglio cambiare tutto mo basta. La rivoluzione nella mia testa. Tutta la gente balla e fa festa. Guida mia nonna dalla finestra. Voglio cambiare tutto mo basta. Chi lo sa che c'è chi dice che ai clandestini ci vuole sparare. Ecco perché mo io dico a te, ancora un'altra volta, rivoluzione. Senza la TV e senza i videogame, solo le canzoni che ti mettono i DJ. Senza media toglierai. Solo una canzone che non si ferma mai. Sai, sono le cose che non ci stanno più. Nascono i bambini che non vedono TV. Nascono i bambini perché senza la TV stanno mamma e papà che si amano di più. La mobilità è senza più petrolio. Ogni famiglia gira con il sciumo. Ogni cittadino gira con la bicicletta. Tassativamente la natura si rispetta. La rivoluzione nella mia testa. Tutta la gente balla e fa festa. Guida mia nonna dalla finestra. Voglio cambiare tutto ma basta. La rivoluzione nella mia testa. Tutta la gente balla e fa festa. Guida mia nonna dalla finestra. Voglio cambiare tutto ma basta. Rivoluzione di Casa Massima con le musiche di Mister Data.